non è aperto per natura, ma poi specialmente di notte. Guarda, tanto fra, ho constatato che prendendolo o non prendendolo, certe volte lo pigliavamo a mezzanotte, mi giro con amici, e prendendolo o non prendendolo non dormo comunque. Io per dormire mi devo caricare di brutto di roba, no? Per dormire. Oh, scusate, là, ti ho dato, passiamo un cerappio, non sono andato a spegnere il baracchino, continuo a cenare, ho già cenato, mi ha detto pizza, l'ho fatta io, dai, continuo, ragazza, domani, buonanotte, buon proseguimento, e ci sentiamo domani se Dio vuole, ciao. Carabinieri permettono. Ciao Lu, buon tutto, a domani, se coincide. Natalì, il microfono, questo è uno shure. Quello sì, ce l'avevo io, ce l'avevo il carne più 2, carne più 3, Shurer e MB più 4, mi avevi tutti in fila. Cappa, questo già ce l'ho parecchi anni, anch'io ho avuto il carne più 3 da Palmo, caspita, l'ho dato a un mio amico, te lo faccio io, scusate il telefono. Telefono a destra, telefono a manca. Beh, Natalino, gli volevo dire a Franco, ma te ne immagini questo Natalino, gli volevo regalare il 3009, a tutti i costi non ne ha voluto. Dai, ammazzati, se cambi idea sto sedendo in macchina e sto venendo. No, te l'ho spiegato i motivi, Natalino. Perché tanto poi me lo devo riprendere, riaprirlo, rifare i controlli, non va bene, dai, è un problema. Dammene uno degli altri, il 555, va bene, mi accontento, da. Gli attacco le MB più 4, così esco sparato e vi faccio schiattare. Eia, questo è il 5005, 1, 2, 3, 4, 5, ola la cipolla, ola la cipolla. Oh. Tu al 5005 riesci a entrare, anzi riesci a dirmi, aspettate, vieni pure, sono troppo. Ok. Riesci dal menu dirmi come si cambia il bip, che non ci ho capito una merita, ma voglio essere volgare. Sì. Allora, sono due voci, uno per la frequenza del menu, uno per la durata. Adesso vado nel menu e controllo, ti faccio un esempio, io l'ho messo tipo cortissimo, tipo cold, ma non so se somiglia, aspetta, lo faccio sentire. Prova 1, 2, 3. Ok, va bene anche così. Adesso ti dico le impostazioni, eh. Allora, aspetta che mi prendo, lo faccio in diretta, dai, se non disturbo, apparito. Cosa disturbi? Perché proprio sono abbastanza anche guarda, perché qua mi interrompe, fischia, esce, vabbè, cazzo, sono proprio scala, cazzo, qua, vabbè, tengo il volume al basso. Sì, allora, la frequenza del menu è la voce RBF, Romeo, Bravo, Foxtrot. Quindi per accedere al menu, tasto funzione, lo tieni premuto e ti compare il primo menu. Poi lo tocchi brevemente fino a che vai alla voce RBF, che sarebbe Roger Beep Frequency. Primo passo, dai. Allora, tiriamo un attimino il... Ok. Poi mi dice N9, cosa vuol dire? No, quello devi saltarli. Quello è il NOG, l'autoascolto. Allora, no, tu da zero parti, no. Tieni premuto function e accedi al menu. Cioè, come ti compare la prima voce, tu continua a premere function brevemente finché arrivi alla voce RBF, Romeo, Bravo, Foxtrot. E ascolta mentre lo faccio, e tu fallo, io te lo dico. E quando arrivi alla voce RBF con la manopola dei canali ruoti e ti modifica la frequenza del beep, che nel mio caso è molto alta, è messa a 2500 Hz. Ok, invece la mia è molto bassa, 10 qualcosa. RBF, quindi devo sapere, adesso ci provo, aspetta. Sì, provo a metterla tipo a 1000, facciamo una prova, provo a metterla a 1000. Per confermare premi PTT. È andato fuggito, Sono qua, aspetta, stanno facendo una prova. Aspetta, Natalì, ma lo capito, cos'è oggi il bip, cosa diavolo è? No, non c'ho, non me lo dà a me. In FM funziona, è buco. Ah, in FM funziona, scusa, ridda. Vabbè, aspetta che faccio fare Giovanna, Giovanna avanti. Vabbè, non fa male. Praticamente l'ho trovato adesso, l'ho rifatto e non lo trovo più. Tino, sei riuscito? No, ho detto. La prima volta l'ho trovato, però se cos'è che quando non continua a farla, se la fa normalmente è una cosa normale, quindi dovresti normalmente fare function e ricercarlo. Adesso non lo trovo più però. RBF, cos'è eso? Sì, è abbastanza alla fine, infatti certe volte lo salti, io quando vado veloce a cercare le funzioni lo salto e devo ricominciare dal capo, no? Nel mio caso adesso l'ho messo a 1000 Hz, però è talmente breve che non si sente, dovresti non sentirlo. No, voglio cambiare, ma quello è mio, bruttissimo, e quindi lo voglio cambiare, ma ci provo, rimango corretto e ci provo, vai. Quindi riepiloghiamo, per accedere al menu ci siamo, poi brevemente tocchi fino a voce RBF con la mano fra i canali regoli, guarda che è molto, oppure con i tastini del mic originale, perché è lungo mi da regolare, cioè ci vuole un po' di tempo, adesso il mio l'ho messo a 1000 Hz, sempre breve, guarda. Non è bellissimo, voglio dire, è sempre, non è il classico bip, ma è secco, capito? Mike originale. Ecco, cosa mi hai chiesto Tino, se sto usando il mic originale? Io sì adesso. No, adesso io ho attaccato il mic originale per fare, per tenere per il muto, ho attaccato già il workflow, diciamo. Ecco, adesso io ho tenuto 1000 Hz di frequenza come esempio e l'ho messo a 300 millisecondi, cioè 0,3 secondi. Anche più veloce? Eia. Comunque ricordati, sono due le voci, una RBF frequenza bip e poi RBT, mi pare sia Roger Bravo Tango, cioè Roger Bip Time in millisecondi espresso, e poi 300 millisecondi di adesso, come adesso sono 0,3 secondi, comunque è un po' lungo, è lungo. Ah, quindi allora cosa facciamo veloce, vabbè, allora aspettate, me lo scrivo così non faccio la calma quando tempo, perché non ho neanche la, come si dice, il foglio di indicazione, non ho niente. Matteo, un video, se io faccio un video non te lo posso mandare? Ti faccio vedere come impostarlo, che so. E tu non ce l'hai il contatto, vabbè, ce l'ha Claudio Massimiliano, cioè te lo fai passare il contatto WhatsApp. Cioè vedendolo ti viene meglio. Sì, però vabbè, allora devi chiedere il numero, non c'è problema. Il problema è un altro, che volevo sentire la modalità del bip, perché anche questo qua è il bip, non è il classico, cioè ascoltandolo dalla radio riesco a sentirlo. No, me lo sento anch'io, guarda, lo sento. Ti fa il monitor del bip. Ah, cazzo, faccio sentire quello che ho io, aspetta. Allora, questo è il mic originale? Eia, dopo tutto non è male. Ah, io gli ho tolto la spugnetta interna e ha migliorato, a patto di stare a tre dita dal mic, cioè se parlo vicino così non va bene, ma se parlo a tre dita va bene, capo. Bene, questo è normale e niente. Guarda un attimino, guarda il bip come fa. Eia, sembra che duri il doppio del mio, come se fosse mezzo secondo mio, o poco più. Potrebbe essere a 500 o a 600 millisecondi. Bene, vabbè dai, ci provo, fammi un video, poi magari lo giri a Claudio e dici che di mandarmelo a Massimiliano, non c'è problema. Eia, comunque cioè, è semplice, più che altro, guarda, se lo vuoi tipo cosa devi mettere 2500 Hz di frequenza, durata tipo 100 millisecondi, come ce l'avevo all'inizio, più o meno. Eia, vabbè dai, fai girare così poi almeno prima è, vabbè, le funzioni, cosa devo cercare? Ridimi le tre sigle. Allora, vabbè, al menu sai accedere, no? Tasto funziona, ti è premuto un secondo e appare il primo menu, che sarebbe il Mic Gain, quello IC63, quello è Mic Gain, che deve stare sempre a manetta, ovviamente, a meno che non usi cose strane. Quindi RBF, F di Firenze, RBT di Torino. Frequenza e durata, time. RBF, ok? Confermo, confermo. Adesso rimetto come era prima, metto a 2500. Bene, all'altra sigla invece qual era? RBT, Romeo, Bravo, Tango. Roger Beep, time, durata, cap. Ok, dai, ci provo. E quella dove va, quando va invece Roger Beep, Tango? Quanto vuoi tu, per esempio, se lo vuoi tipo colta, mettilo a 100 millisecondi, 100 millisecondi è breve breve, 50 è troppo breve, a giù mai non si intende, e la frequenza 2500, adesso te lo faccio sentire, dammi un attimino. Ehi, va bene, così mi gioco, dai. Oh yeah. Giocati, giocati. No, perché Natalino mi hanno dato le istruzioni e niente, ce l'ho, ma sono in inglese, non ci capisce un cacchio, quindi è inutile avere una radio, poi magari tu che vai a finire in gabinetto. Non so neanche come modificare la modulazione, perché ha un casino di cose dentro questo menu, capito? Ma una bella radio, una radio insomma completa, è sempre della famiglia 6009, non ti credi che sia una cosa, però è più completa. Cioè che non le fanno più quelle. Ecco, Tino, dimmi se somiglia vagamente a un Echo Colt. Sì, quello mi piace, ma fallo una volta solo. Ma perdonami, ecco, il Beep Colt, guarda, mollo. Sì, diciamo di sì. Ehi, qua, sì, fa un po' da monitor, però ci vorrebbe un barchino esterno per sentirlo. Vediamo, attacco l'orecchio all'altoparlante. No, perché breve non è impegnativo, capito? Già il suo prezzo 3009 per i miei gusti c'era troppo lungo e non lo puoi togliere nemmeno. Qua almeno c'è il tastino, Roger Beep, on off. No, è bello, sai perché è bello, Marco? Perché è bello, è corto ed è forte, quello che interessa. Cioè questo qua è dura più lungo di un mese di maggio. Dai, ci provo, dai, poi ti faccio sapere. Sì, in realtà non c'è bisogno del video, accetta se canta, perché se sbagli esce dal menu, deve rientrare nel menu, riandare alla voce. Infatti io lo lascio fisso, cioè alla fine io Beep non ne uso mica, non... sai quando lo uso? Esclusivamente a mano laterale, quando devi far capire all'altro che magari se parli lento o no, che è finito di trasmettere, cap. Sì, questo è l'ascolto, ma un'altra cosa, per conferma invece devi fare il PTT, così? Sì, o il PTT oppure passi alla voce di menu successivo premendo brevemente function, capito? Anzi io preferisco come ho regolato la durata giusta e la frequenza giusta, tocco brevemente function e poi premo il PTT per uscire al menu, se no già esce da solo dopo mi pare 3 secondi. Vabbè, ma dico, l'importante è che rimangano le impostazioni che tu le dai. Sì, sì, sì, rimangono, una volta, se la frase è giusta, io poi lo faccio alla Carlona, mi come viene, viene. Poi il Beep già lo usare, poi anche lei come il lecca lecca, esce, vedi? Prova, prova, ora, ora, quando l'eco non lo sento. Per sentire l'eco devo mettere il NOG, quello che hai nominato prima, il NOG, l'autoascolto. E lo puoi regolare come vuoi tu di volume. Di solito 20 o 30 è sufficiente. Col mic normale. Se metti un amplificato no, perché innesca di brutto. Cap, cap. Va bene, riprendete che mi gioco. Poi già sono all'ascolto con l'altro apparato. Ehi, prova, prova, hola, hola, eccolo qua, qua, adesso mi sento, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, l'eco non è da me, vediamo un po', come sta, sta, sta, hola, hola, hola, Natalino, Lino, ci sei, sei, sei, niente, Pomponio, ci sei, sei, tutti molti, molti, vabbè, allora mi faccio le prove mie, prova, prova, prova, veloce, c'è, qua, qua, qua, giù, giù, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5. Ecco. Avanto, avanto. Ciao Marco, cosa sei come Eli? Oh, stavo dando delle istruzioni a persona. Oh, Iago, questo ecco va in una buona. Questo lo levo. No, istruzione. chiamano per il menu del VIP, del Roger VIP, che qua e io ho Gianni perché preferisco il 3009, non a questi menu, sottomenu, sottofunzioni, c'è tutto, ma non con le levette, basta, perfetto. Come quello che hai tu, basta, no? Menu, sottomenu, se sbagli devi fare il solo a capo, ogni paranoia. sì. Vabbè, la semplicità è la cosa. Sono quelle cose che funzionano sempre meglio, dai. Come diceva l'ingegner Taglioni, credo che fosse un motorista della Ducati, diceva meno cosa c'è, meno cosa si rompe, quindi e più o meno, dai, è una metafora che si può applicare anche qua, dai. Chiuso l'entrato, è un'altra lettera. Come dice l'ingegner Taglioni, Miniso Farendi di Gucci. Sempre nelle camere di Miniso, sì, tu. Gianni, come ti sembra questa radio? Ciao Natali, buonasera. Hai cambiato dalla notte al giorno? 10 più. Ma forte? Benissimo, ti ho detto che hai cambiato dalla notte al giorno, 10 più. Allora non lo modifico neanche questo MB più 4. Diciamo, è fortissima, è natalista, la cosa è bellissima. Però è chiara, rispetto a prima già è molto meglio, molto. Ci sono riuscito? Ehi a te, fammelo sentire, alzo il volume, un attimino, alzo il volume, vai. Via. Quindi riepilogando, 2500 Hz hai messo e 100 millisecondi? Sì, 100. Sì, allora dovrebbe essere come il mio, lo faccio sentire per così gli altri ci dicono se è simile o uguale. Prova, 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3. Natalino, il beep è simile, Gianni, a quello di Pino? Perché poi può cambiare anche leggermente da apparato a apparato, un po'. È uguale, è corto. Ehi, ciao Gianni, no, vabbè, era per vedere se era così preciso, guarda. Va bene, sì, è una fotocopia. Andare, adesso metto l'amplificato, vediamo come tocca. Ehi, ok. Bene, bene, beh, visto che non ci voleva il video, ti è abbastanza sì. Sì, ti prende un po' la testa perché poi se sorpassi il menu devi fare di nuovo il giro, lui, non è meglio tutto alle vette e manopo, già hai capito. Sì, sì, vabbè, era giusto per confermo, anche per cambiare, era troppo lungo, andava bene. Va bene, lo tolgo adesso. Adesso è, ma lo stesso apparato è amplificato, adesso è una potenza. Sì, adesso è con il più 5. Più 5 modificato? Sì, credo di sì. Spinge un bel. Per esempio io se metto il mio MB più 5 che è vergine diciamo, come di negozio, spinge ma non eccessivamente diciamo, dai. Se lo modifichi, vabbè, spinge troppo, dipende dall'apparato poi. Bene, dai Gianni, ripeti, ciao comunque. Buonasera, ciao Alessio. Cosa volevo dire? Comunque, per Marco, questa radio sarà super prestazionale, ma cioè la modulazione del 3009 in confronto a questa è 10 a 1. Vero? Cioè il 3009 non c'è storia. Oh, conta che sto usando il mic originale. Il mic originale è come quello di Natalino, è una saponettina piccola. No, proprio non ce n'è per nessuno. Cioè è come mettere la Pietà di Michelangelo con un quadro di Andy Warhol. Uno è una cosa allucinante, l'altra è una cagata. Ehi Antonè, ti sta chiamando la bella Giovanna, mica. Sì, esaurito con questi bimbi, sì. Chiama e ti risponde. Vediamo se arriva. Giovanna, mi copi? Sì, noi ti copio. Sai cos'è? Siamo entrati tutti a far prove in fretta e non abbiamo ripreso in fretta. Dai Giovanna, già ti copio. Segnale 9 o qualcosina di più, forse 9 più 5, se c'ho lo smitter a LED. E beh, come ti anda? Come va la clausura? Ma io penso che la campagna di calcio di clausura. Antonè, io la sento bassa di radio, cioè io devo abbassare per loro e alzare troppo per lei. E non si può fare qualcosa? Avvicina poco al microfono, Giovanni. E allora, parla solo del baracchino tuo, mio Marco, quindi. Mi senti? Però è essendo un mic normale, presumo. Sì, ti sento, devo attaccare l'orecchio all'altoparlante. Attacca l'orecchio all'altoparlante. Ma poi riprende Tino, Gianni, Rubrofetta, mi fa sgoglio. Allora come se ne chiedesse. A questo proposito, dai Natalino, il profeta, vediamo se è rientrato anche Franco che era al telefono. Vai già che mi piglio questo benedetto caffè, ancora sono a prenderlo. KK, ciao Giovanna, buonasera, ben sentita Gianni qua a questa parte. Ti sento molto molto bassa, comunque buonasera e ben entrata. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao anche Natalino. A Giovanna, bassina ti sento, però la colpa è mia, c'ho l'antenna bassa. Ciao Giovanna, ciao. Antonello, sono a casa, sono finita perché c'è la caldaia. Aspetta, ciao Giovanna, che è anche qua bassina, però la colpa di Antonello già lo so. Adesso, forse la colpa deve essere tua, perché la mia. Cosa ci vuoi fare? Basso è lui e basso anche la modulazione. Che disgraziato, quando ti trovo magari ti... già lo so cosa fate, che ti faccio un allaccio. Un coccomane questo Tino, un coccomane. Anche il maggio sì, era bravo. Ha capito, ti mi ha sgridato Giovanna. Hai visto, Giovanna, dentro al microfono, c'è un pulsantino. Lo vedi? Perché c'è solo lì? Guarda, no, puoi sentire tranquillamente qualcosa, col dito. C'è un pulsantino, mi sembra che ha uno, prova a metterlo a due, beh. Così? Così va meglio. No, Luca stava mangiando. Io mi sono dimenticato clamorosamente di Nicola, peraltro. Scusami Nicola se sei all'ascolto. Non c'è più. Palle. Insomma, alla fine, col decreto regionale cosa potremmo fare? Tutto sempre certificandolo, no? Si può andare in chiesa. Questo è mio, ma stavo partendomi. Non provare un vano. E puoi andare nelle seconde case che io non ho, ovviamente. Vabbè, quindi non è cambiato niente, dai. Speriamo che ci facciano andare al mare almeno quest'anno. A me quello mi interessa. Un po' farmi un po' di estate, perché se no è alienante così. Gianni, vai. Eia. Ma come mai ti sei messo a smanettare con questa radio stasera? Avevi voglia di cambiare? No, ti spiego. Ho visto un video su YouTube dove un tale aveva la stessa radio, un inglese, no? E si lamentava che l'FM era troppo, come dicono loro, muffled, no? Soffocata, ovattata la modulazione. Ho tolto questa spugnetta che c'era tra la gabbia del microfono e la capsula. E sì, ha guadagnato un po', però non è. La capsula è di qualità infima, è una capsuletta brutta, non paragonabile alla modulazione del 3009, ma anche mettendo il mic del 3009 qua non migliorerà, non credo migliorerà, potrei fare la prova quasi istantanea. Questo microfono è molto barattolo, rispetto a te l'ho detto, è come prendere la Pietà di Michelangelo e a fianco metterci un quadro di Eddie Warhol, capito? È tutta un'altra cosa. Eia, adesso lo attacco, un attimino, 1, 2, 3, questo è il vecchio, ricordati, Allora, questo è il mic che uso sul Superstar 3009. Allora, guarda, parlo vicino, un dito dal mic, 1, 2, 3, 4, 5, due dita dal mic, 1, 2, 3, 4, 5, stesso volume di voce, come prima, come con l'altro mic originale, tre dita dal mic, 1, 2, 3, 4, 5, ha cambiato? Certo che ha cambiato, diciamo che il suono è diventato molto simile adesso al 3009, quindi non è uguale ma molto simile. Questa radio risulta più mediosa rispetto al 3009, non so se anche Alessio e gli altri confermano. La verità mi piaceva il microfono di prima, ma questo proprio è leggermente più basso. Va vabbè, più bassa, ma se parlo vicino, Antonio, vedi un po', 1, 2, 3, dai. Comunque vabbè, su Pazzar non si batte, dai. Lo so, ma se ci ritorni anche dal clima dell'RC, non sai quanto cammina quel Superstar 3009. Fate distacchi il clima e diventa come l'87, tale uguale. Lo so, però il 3009 vorrei lasciarlo praticamente versione omologhe. Già c'è l'altro col display rosso, che puntini. Ah, capito. E ne ho visto uno bello stasera, costa anche 165 euro, visto. Col display rosso, tutti i tastini nei fianchetti, uno soprannato, quello era bellino, su bello ho visto. Ok, dai, facciamo girare per Giovanna, avanti Giovanna. Ricordami un attimo, Marco, se avevo una Kawasaki. Allora, io ho avuto una Kawasaki Z250 tanti anni fa, e poi ho avuto a seguire una Honda 400 Four del 77, che era in principio blu, azzurro diciamo, e poi l'ho verniciata nera. No, perché mi ricordo la Kawasaki. Sì, guarda, se ti ricordi la Kawasaki era colore, una specie di Bordeaux. Sì. Bei tempi, quando andavo in moto ero giovane, avevo tanti capelli, tanti denti e anche altro. E facevi anche la babysitter? Oh, faccio fatica a copiarti, Giovanni, certe volte, non lo so perché. E ripeti. Facevi anche la babysitter, mi ricordo. Facevo la babysitter? E a chi? A me, mi facevo in moto. In moto? No, tu con me in moto non sei mai venuta, Giovanni. Che io ricordi, a meno che non ci abbia l'Alzheimer io, può essere. No, può essere che c'è chi l'Alzheimer, perché io non ricordo che mi ha portato anche in moto. Ma no, sai cos'è già? Io ti avevo conosciuta a casa di Pomponio, che io ero però appiedato, 85, ma eri piccola, molto piccola. Dopodiché, quando è che abbiamo avuto occasione? Ma molto, stai dicendo, non scooter, no? Ah, lo sono andati, me lo ricordo, e cavolo, di una cosa così eccezionale me ne sarei ricordato meglio, però come mai? Ma forse ti ho accompagnato per un breve tragitto, Giovanni, può essere. No, ho proprio dimenticato, me l'ho dimenticato, ho detto babysitter, no, poi non ho pazienza né con i bambini né con gli anziani, non ho pazienza con nessuno. Vabbè, ho avuto pazienza perché mi muoio. Guarda, adesso sta mettendo le ragnatele in garage, un Piaggio Liberty 125, ma quella non è una moto, è uno scooter, è un'altra cosa. La vera moto, Gianni, già lo sai, no? È come la pensa Eugenio anche. La moto è moto, scooter è un'altra cosa, è una specie di triciclo con il motore. Vai Gianni. Ehi, confermo. Oia. Ah, mamma mia. Ma volevo dire un'altra cosa. Ma me ne sono dimenticato. Comunque, ormai ci ho fatto un orecchio al 3009, che qualsiasi altra radio che usi non mi piace. Ti dirò di più, che questo ovviamente non essendo omologhe, il trim dell'AM è stato aperto. Pensa, c'è il 3009 omologato, fa le scarpe a questo col trimmer aperto. Allora ti voglio accontentare, nel frattempo rilancio Tino, vediamo se c'è ancora, e attacco il 3009, dai. Dai, fate girare nel frattempo, dai. Eia. Va bene, dai. Facciamo. Ali. Avanti, Ali. Sono qua. E allora. Uscito sei oggi da dentro a casa tua, del centro storico, qua erano tutti senza mascherina, senza guanti, tutti a passeggio. Lì al centro storico già me lo immagino, perché ci sono sceso ieri, tutti senza mascherina, senza cosa, non mi attaccavo un cazzo, proprio di niente, tutti a passeggio erano. Marco, sta cambiando l'apparato, ti sta attaccando. Sono andato l'acqua, nonostante fossero le 1:30, 1:15, insomma c'era un bel po' di movimento, eh. Quindi fino alla testa che capottino, sì, avanti tiro. Forse siamo sovrannuati, sto dicendo che mi sto allontanando, volevo un'info da, da Marco, ma più tardi magari se, se ne ha voglia. Devo lontanare, devo fare da, da preparare qualcosa al pistolare a mangiare. A più tardi, eh. Sono qua. Vabbè Marco, ma per un po' di tempo, era giusto per qualche voce in più, diciamo, da segnarmi e fare con calma, capito? Giusto per dire il Michigan, come è andata, come si trova, come va chiamato, ecco. Sì, guarda, mi chiedi, è il primo che ti compare. Mi pare che una... ce l'ho qua. Aspetta, Lo dico al, al volo, dai. Tengo function IC9. C'è una specie di I piccola, C9. E deve essere a 63. 63 è il valore massimo possibile. Cap. Bravo, capito. Quindi deve essere a 63. Ok. Poi vabbè, ma prego, con calma, sennò... blocchiamo ancora a vuoto tutto quanto, mi allontano un attimino, se ne voglia più tardi, dai. Ti dico solo, che il resto raramente si tocca, cioè una volta che imposti il bip, che c'hai inserita protezione da stazionarie, protezione da sovra e sottoalimentazione, tutte le cose non si toccano mai, a meno che tu non abbia esigenze particolari veramente, ma per l'uso normale non le tocco mai, mai. Ma non so se sono state toccate oppure no, hai capito, volevo fare un riepilogo generale, giusto per vedere se i valori erano, erano precisi o meno, perché a me la radio così mi va più che bene, capito, però magari è giusto per vedere il leaky gain, questa roba qua, capito? Sì, sì, guarda, domani, tanto è domenica, cioè anche i giorni feriali mi spallo a casa, perché a parte la spesa e le medicine io non posso andare a bigallonare in giro purtroppo, senza un motivo giustificato. Beh, lo vediamo, ti dico, voce per il mio, conta che non le ho toccate, cioè a parte il bip sono tutte originali. Ok, dai, sentiamo. Il profeta, stesso Mike, Superstar 3009, versione omologhe. Dai, io preferisco questa, Marco. Ehi, ascolta, a orecchiometro, cosa apprezzi? Toni bassi, medi, alti, migliori, migliore timbrica, tutto, enfasi, tutto che ti piace. Questo è meglio, cioè personalmente mi gusta più questo, dai. Come resa sonora, come tutto, dai. Venga, a me c'è perché piace questo. La tonalità di ricezione è leggermente più acuta, quindi anche chi ha quelle radio un po' cupe, un po' con troppi bassi, qua me li smorza i bassi. E io ho l'orecchio più abituato a ricezione con questo, esattamente. Invece già la KR5L5 c'ha, è più ricco di bassi, alle volte l'orecchio che è cupo lo sento troppo cupo, qua invece lo sento meglio, capito? Riprendi Giovanna. Aspetta, ti viene così quello via, ha cambiato? Come ti? Ha cambiato, adesso l'ho messo a 63. Direi molto amplificata. Gianni, com'è? Boh, esagerata secondo me, non lo so. Stava già saturando secondo me, boh, poi non so se mi sbaglio. No, sicuramente così, credetemi. Perché già il microfono spinge più, quindi lo riporto come era prima, era una prova, ragazzi. Oh Tino, comunque io tendo a fare così. Allora, io il mic gain non lo conto nemmeno, io lo metto al massimo, io lo conto come se fosse un apparecchio privo del mic gain. Di conseguenza abbasso sempre l'eventuale amplificato che li collego, tutto lì. Però se no, se devo stare menu mic gain, alza, abbassa, capito? Cioè non lo conto proprio i mic gain, io da quando è arrivato l'ho messo al massimo è rimasto. Con quello là, no, col 5005. Aspetta, giusto per... Bene, così l'ho abbassato, ha cambiato qualcosa? Allora, così è da salotto, come potrebbe essere, credo, la mia modulazione. Vediamo Gianni cosa ne dice rispetto alla mia, quella di Tino adesso. No, adesso va meglio, poco fa era proprio fuori. Sì, lo so già, è che ho fatto l'impostazione dall'interno, diciamo, vai, dal Michigan, dal pannello, usando l'amplificato, insomma, non riesco a sentire com'è. Ho capito, sì, ho capito, la radio è uguale a quella che c'ha Marco, sì, che c'ha il settaggio tramite menu, sì, ho capito. Vabbè, bisogna trovare, già lo sai, no, non ti sto dicendo niente di nuovo, bisogna trovare un compromesso. Tino, sai cos'è? Cioè alla fine se c'hai due guadagni microfonici cominci, abbassi uno, abbassi l'altro, alzi uno. Cioè, considera come se non ci fosse Mickey, che fosse un apparato senza Mickey. Alla fine basta agire solo dall'amplificato e è risolto tutto. Bene, adesso lo riporto come la prima, tanto credo che prima andava anche bene, quindi. Ma ha iniziato a arrangiare l'alimentatore mio, mamma mia, appoggiami. Gianfranco, QTCIS, sia l'ascolto, ho seguito le tue istruzioni, una goccia d'olio. Niente, non è cambiato niente, ci deve essere l'alberino fuori asse. Oh, giù di lì, dai. Guarda, l'ultima prova, guarda se va bene ora. Bella forte, bella forte. Naturalmente tu lo sai come la penso io, preferisco modulazioni da salotto. Per esempio Giovanna certe volte ho fatica a copiarla, nonostante il segnale sia buono, devo attaccare l'orecchio all'altoparlante. Comunque per uso comune, normale, vai, prova. No, era come lo avevo sempre, dai, l'ho fatto puro, diciamo, questa è la mia modulazione. E niente, l'ho abbassato da 63 a 31. Vabbè, non fare paragoni tra me e Giovanna. Giovanna ha una voce sì, non è che, insomma, io ce l'ho un po' più scorbutica, più rude, più grezza, più tutto. La mania, va. Beh, la voce di Giovanna è molto più sexy, ce ne fossero. E quella era, insomma, io. Ah, va bene. Poi dipende appunto quanto vuoi uscire forte. Io lascio sempre solo il mic normale, perché tanto lo sai che non amo quelli da tavolo. E poi li amplificati da palma alla fine, boh, non lo so, non so dirtelo. Vabbè. Adesso mi ha fatto ridere Antonello, perché qui tu hai subito la mania, ecco, difendendo la sorella. Ehi, Antone, cosa vuoi fare? Il siciliano? Il geloso? Tranquilla, se ne che ti sentire bene. Lo so, mettendo un panino del tappo netto. Giovanna, fregatene, solo un complimento. Va bene, ciao. Grazie, un saluto della voce. A parte che è Giovanna che difende Antonello, Antonello è bacino e busca. Glielo ho detto poco fa. Io sai che se la vicina che non ha lui, sono stacco la stessa a Messi. Io difendo a Simone. Marco, stai usando il microfono originale del 3009, quello che hai sempre usato, perché sembra che stai maneggiando un Kinder sorpresa, sentono un sacco di rumori. Allora, no, ti spiego, io questo lo considero del 3009, ma non è l'originale del 3009. Ecco cosa senti tu, la capsula che balla, perché io sto sempre gesticolando tipo Parkinson, no? Se tu vuoi sentire l'originalissimo del 3009, proprio quello di fabbrica, ti lo posso sentire. Lì non balla la capsula, però non, se vuoi... No, infatti, cioè, sento questo tipo effetto Kinder Sorpresa, qualcosa che rimbalza dentro, questa cosa plasticosa che si muove dentro il microfono, capito? È giusto quello, chiaramente non è il suo microfono originale, e vabbè, dai. Comunque Tino, non so se si è spostato, dai, casomai ci si sente più tardi. Io sto usando il Mickey Gain della radio a metà e il volume del microfono, lo slider che c'è sopra il microfono lo sto usando a metà, quindi sono al 50% tutti e due. Ehi, c'è l'effetto Kinder sorpresa. No, io, che poi equivarrebbe a mettere, cioè a lasciare il Mickey Gain sempre a manetta dell'apparato e tenere a un quarto quello dell'amplificato. magari per ridurre i consumi batteria, vabbè. Comunque, allora, questo mic di timbrica dovrebbe essere lievemente superiore a quello di serie, che adesso andrò ad attaccare. Allora, questo è quello di serie, proprio di serie del 3009, è una forma, c'è scritto Star, è una forma a forma di forma, vedi un po' 1, 2, 3. No, l'originale è sempre No Plus Ultra, dai. Non c'è paragone, non so gli altri cosa dicono, ma non c'è paragone. Che poi in realtà, Gianni, questo è l'originale, quello marcato Star è l'originale. Quello che dicevo prima è il famoso Lafayette, aspetta, come si chiama? Lafayette BMC 507, che ha un'apertura della griglia frontale molto più aperta, c'è una capsula di dimensioni maggiori. È tutto migliore, dai, tutto migliore. Boh, io preferisco questo, senza un bel dubbio. Non so gli altri, io personalmente approvo questo qua, dai. Ah, tu approvi questo l'originalissimo, più della Fayette normale. Capa di rosmetro, sì, proprio mette il timbro, dai. Allora, sai perché io uso spesso, vabbè, questo ha il cordone molto rigido, per esempio quando lo metto in macchina, questo è un cordone rigido, devo stracciare l'apparato, mentre il Lafayette ha un cordone molto morbido, è ideale per l'uso veicolare, da fermo ovviamente, no? Sì, da fermo, sì. Andava bene, sì, ma adesso è proprio il top abbinamento assoluto. Il suo, dai, il suo. Squadra che vince non si tocca. Dai, fai girare, Marco. Vabbè, io sto cominciando a crollare, sto venendo la biocco del. Vediamo che ce ne, dunque ci sarà. Sì, Simona, buonanotte. Giovanna, Simona, non so da dove uscito. Forse Natalino all'ascolto. Chi tutto c'è? Io? La gente. Io sono Natale, se mi ha chiamato Giovanna. Ma Giovanna, Simona. Tu già mi visto, già mi incogliendo perché tu gira la testa a sinistra, passa la casa. Auguri, sorella. Io sono qua, sono andato a mangiare, poi ho dovuto mettere la crema. Adesso che mi sono fatto andare con la crema, adesso vediamo dopo se c'è qualcos'altro. Dire che si la crema o lui? La crema al collo, perché tutta la sera piegata con questo collo, capito? E c'ha nausea. Ma gli ho detto, stai seduto al letto, no, si piglia tutto un fianco, si piglia si guarda fuori di giorno tutta quanta piggiata. Sì, Gala, guarda che ti ho fatto la storia, l'ho passato 5 minuti più 5 minuti. Ah, mi sa che tu col letto ci metto una macca, forse è meglio. Se l'ha rotto lui, non posso capire. Ui, sto scendo di testa qua. Il cane che mi gira intorno perché vuole uscire. Da quando è venuta Alessia. Aspetta due secondi, mi controllo il panino, se no non mangio stanotte io. Ok, Natalino. Nataloide, ci sei? Hanno chiuso tutti perché sono anziani, Giovanni, non ce la fanno più, devono andare a dormire. Mamma mia, che gioventù bruciata, credo. Dai, sto scherzando, perché all'ascolto, dai. Ui. Vabbè, argomenti non li abbiamo, siamo alla frutta, dai, fine serata. Oggi sono entrato un po' prima alla radio, quindi ci devo buttare la differenziata, sono in pigiama, mi devo vestire, calzare, tutto per buttare la differenziata, a meno che non scenda in pigiama e pantofole, tipo ospedale psichiatrico. Vai, cosa ti affutti? Anche io faccio altrettanto, almeno posso a mettermi il vestito alla serata di gala, buona parte, raga. Dai, io mi sa che mi sgancio, vado a mangiarmi qualcosina perché lo stomaco inizia a brontolare e quindi mi accingo a smorfire qualcosa, dai. Eia già, dai. Buona sera, buon tutto. No, è domenica, un'altra palla di giornata, me. Però, anziché in radio, vorrei fare qualcosa al computer se riesco. Stavo sempre sperando di fare roba alternativa, macchine virtuali, non ho mai il coraggio di iniziare a provare a sperimentare. Va bene, dai, di nuovo sentiamo già, ciao. Dai, salutoni, salutoni a tutti quanti e alla prossima, dai, ciao ciao. Ciao Gabi. Alla fine chi ci è rimasto? Antonello forse che va e viene, Giovanna e io, non pare nessun altro, no, Pino c'è ancora, no. Vabbè, mi dicevi Giovanna che non ti sta pesando più di tanto questa cosa. Ti dirò, io sono pantofolaio, però il fatto di non potermene andare, che ne so, fine settimana a Platamona a vedere il mare, a Pro Torres, a prendere aria fresca, non mi va, non mi sta piacendo niente. Per questa cosa che ancora ti devi giustificare per gli spostamenti, e vedrai che la tireranno avanti alle lunghe, questa cosa qui. E devi stare col certificato, ti devi giustificare, stanno qui, stanno là. Vabbè, io stasera sono uscita con i bambini in macchina, ho fatto campagna, non ho incontrato nessuno di polizia, niente, perché stato sulla 131, ho incontrato tanti carabinieri che la loro parte della strada, per cui niente mi ha fatto la 131, diciamo, ho finito da andare a fare io. Però di lì, mi dico, sono uscita in campagna, sono stata in erba, ho fatto con i miei figli, mi sono divertita. Sì, infatti io vorrei che fosse definitiva questa cosa. Speriamo che non abbiano fretta, troppa fretta di riaprire luoghi, se quelli molto affollati tipo bar, perché lì sono veramente affollati e a stretto contatto. Perché se poi c'è un picco di nuovo, c'è un rialzo dei contagi, e qua la tiriamo alle lunghe, ci giochiamo anche l'estate, per carità. Poi non so se a te piace il mare, Giovanna, no? Ti piace andare al mare oppure... Sì, a me piace andarci, solo che parlo del mare con sedia al sdraio, porti il lasso per il santo di mezzo. E chi non può andare al mare a pagamento? Chi può andare o no? Questa è la domanda, capito? Perché di lì non hanno parlato, perché comunque ti trovi lo spiaggia affollato, che vanno anche persone che stanno da una parte dall'altra. Più che altro non sono tanto il bar quanto riguarda la gente affollata, perché comunque c'è la distanza. Se io devo parlare della chiesa, se vogliono aprire con le chiese, la gente va in chiesa. E finirò che lì. Come fai a mettere i distanziatori? Distanziatori, guarda, hanno ipotizzato per bar e ristoranti separi di plexiglass. Guarda che molti gestori di bar e ristoranti, sia locali che anche del continente, hanno già detto che non apriranno, perché in un locale grande tot tenere i tavoli a 5 metri l'uno dall'altro con separé, cioè alla fine cosa usi? Un decimo del locale? Un decimo del locale, cosa rimangono le persone in fila fuori a aspettare di entrare? No, no, non è fattibile, dice, quindi preferiamo non aprire. Poi molti di loro chiuderanno, secondo me, perché quando stai tanti mesi che non puoi aprire, non puoi pagarti l'affitto del locale se non è tuo, pagare le tasse, tutto, e quelle le vogliono sempre, maledizione. Sì, certo, benissimo, poi vogliono anche perché riguarda il finanziamento che vogliono dare ai gestori del locale. Lui devi fare il calcolo dell'anno scorso, di quello che guadagnato l'anno scorso, il prestito, e non mi fa il calcolo di quello che ha guadagnato lo scorso 2 mesi fa. Mi fai questo, ma fate 2 mesi fa, in base a quello che guadagnate 2 mesi fa, in modo da restituirselo, capito? Cioè non c'è nessuna agevolazione in stato finanziario quanto riguarda questo proprio circoli, questo bar e tutto il resto. Io penso che molti non apriranno, e quindi Torino punta sul turismo non ce lo farà. Sarà un casino quando aprirà nuovamente aeroporti e navi, tavola notte. Aeroporti, la roba grossa, sì. Guarda, Ryanair, credo che il rappresentante di Ryanair abbia detto, per mettere la metà delle persone su un aeroplano, o meno della metà, per via della distanza l'una dall'altra, dice, preferiamo lasciare la flotta a terra, perché non ci paghi nemmeno le spese di tutto, carburanti, personale, capito? Vabbè. Poi con la storia dei prestiti, sì, quali sono quelli che danno più agevolazione? Quelli a fondo perduto, mi dice che non ne stanno dando le banche, è tutta roba che deve restituire, pure puntuale, se no inizia a pignorare, è una cosa, boh, a me sembra una cosa tapirottata, non si sa da chi, poi si ipotizzava addirittura che molte attività che andranno male, ci saranno già i cinesi con pieni di soldi già pronti a rilevare le attività, a comprarci in mezzo Italia. Ma sì, sono le loro strutture, le girate, le spazzano così all'altra, tanto loro sono soldi e aprono qui, aprono là, e loro non li controlla, diciamo, nessuno. Cioè, conosco vari locali, questi anche qua Sassari, che non vengono, cioè, si sviluppo più due, paghi uno, paghi l'altro e riesci ad andare avanti, e così, per loro. Invece lo fa uno e solo a fare anche un circolo, ma se arrivano i controlli, come si arriva a fare? Se arrivano i controlli è un casino, poi con queste mascherine, cioè devi stare con mascherina fuori, dentro per le rilevare, a bere il caffè, boh, non lo so come andrà a finire, un fastidio. Ma si ipotizzavano addirittura che devi stare in spiaggia con la mascherina, e ha detto, ehi, hai getta che mi pozzo lo bagno con la mascherina pure. Sicuramente diventeranno vigili urbani molto solerti, pronti a battere cassa, perché alla fine non è questione di sicurezza, quelli lo fanno esclusivamente per battere cassa, per rubare i soldi del cittadino, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Ma tutto magna magna, ma si sa benissimo che tutto magna magna, Marco, cioè, mangi da più, piccolo a medio a grande, ma è un tutto magna magna. Solo che io, se, francamente, se fossi stato vigile urbano mi sarei fatto, c'è una coscienza, se no mi sarei vergognato. E c'erano madri che, cioè, la figlia con la leucemia aveva bisogno di una medicina che all'ospedale non ti davano, magari la madre non guida, il padre guida, tu dici poteva andare il padre, ma non so se mi spiego, figlia che rischia la vita, vuoi non fare andare i genitori a trovarla? Multa 500 euro per carne due in macchina. Ma ridico, ma poi scusa, il marito e moglie, no, in casa, dormono nello stesso letto, tromberanno pure, che senso ha multarli perché sono in due in macchina e magari c'è anche la mascherina? Non ha nessun senso. Ma ti senti bene quando escono loro in macchina per multarli? Loro sono anche in due, sei in macchina. La scusa, la legge vuole per tutti, o è una persona che guida o con due, perché sono in due? Vabbè, però a loro chi li multa? Chi li multa a loro? Nessuno. Dice, noi siamo gli organi di controllo, possiamo fare tutto, almeno loro credono di poter fare tutto, poi vedremo se queste multe saranno lecite o no, già è tutta una cosa campata in aria, il Parlamento è ignorato, non lo so, con un trucchetto, Conte si fa tutto, mi pare molto strana messa storia. Poi sospensione proprio delle libertà fondamentali, costituzionali, uno vabbè dice c'è un virus in giro, facciamo il conto che ci sia davvero, che sia così letale come dicono loro. Guarda che le porcherie che hanno fatto nelle retrovie, no? E negli ospedali, cioè tutti morti, anche per cavoli loro, di malattie, di altre malattie, tutti bollati come coronavirus, per mettere paura alla gente, per metterle in condizioni di vivere come stiamo vivendo, capito? Sì, vabbè, c'è il caso, c'è il spaventarsi, lo fuori, una cosa all'altra, già che quando viene sgozzo è come giocare a labirinto, cerchi di non stare in mezzo alla folla, e al di fuori è lo stesso, cerchi di non stare in mezzo alla folla, però se tu mi apri tutto, che chiese, che ora non aprono le scuole, perché guarda, se aprono le scuole il tavolo ci sono i miei figli, non ci sono le truppe. Le scuole, un altro problema, poi un problema nel problema, Giovanni, perché pensa, anche quando apriranno qualche, metti che a settembre ancora non si sia risolto tutto, cioè i genitori che dovranno andare a lavoro, chi riuscirà a rientrare a lavoro, e magari le scuole sono chiuse, cosa fa? I figli a chi li lascia? Magari non ci sono soldi per una babysitter, per una tata, per una governante, come si fa? È tutto concatenato, è un casino, casino. Vabbè. Poi per non parlare di applicazioni, e tu lo sai cosa c'è in quell'applicazione, loro ti garantiscono che è solo per farti vedere se sei a contatto con gente infetta nelle vicinanze, e magari invece ti spia tutto lo spiabile, foto, coso, tutto, password, cosa ne sai? Quella che pochi anni fa in Germania avevano ipotizzato il Trojan di Stato. Il Trojan sarebbe un programma spia che spia tutto quello che fai, dove vai, qualsiasi cosa fai con lo smartphone te lo spia. E mi pare che gli erano bocciato, comunque era una cosa, credo, non costituzionale, e comunque ancora non l'hanno approvata. Quindi io non emetto di applicazione, perché dicono che sia su base volontaria, no? Cioè non sia obbligato, però inizieranno, perché lo faranno, inizierà a dire non è obbligatoria, però allora non la vuoi installare? Allora lì non puoi andare, pubblici uffici non puoi andare, là non puoi andare, quindi è come che fosse obbligatoria, capito? Ci stanno menando per il naso. Sì, lo so benissimo, comunque a parte quello, sono i miei movimenti, mi dico, a quanto fastidio, ma... Che altro c'è qua? Sì, mi devo spostare da una parte all'altra, da una parte all'altra, ma sai che te frega? E poi, a parte che lo smartphone, già lo saprai, è uno strumento per spiare perfetto, cioè io senza attivare GPS, senza attivare niente, ogni tanto mi arrivavano le notifiche, no? Mensili, allora questo mese sei stato qua, qua e qua, mi indicava tutte le attività commerciali dove ero entrato, e io avevo disabilitato tutto il disabilitabile. Non so il GPS, proprio impostazioni un po' più specifiche, trova telefono off, tutto sempre. Caso strano come aggiorni le applicazioni, ti riabilita queste opzioni che ti permettono di esattamente sapere quello che fai, quando lo fai, è una cosa, vabbè, comunque. E così non si può fare niente, cioè uno rifiuta lo smartphone, cioè non te ne compri, ma è troppo utile, però è un'arma a doppio taglio, capito Giovanni? Sì, lo so, sì, si controllano ugualmente, si controllano. Che poi tu dici, tanto se uno non è terrorista, cosa si ne affutti, però non è una cosa corretta, te lo dice qualcuno che qualcosina l'ha fatta di spiare qua e là. Va bene, chi altro è rimasto qua? Brecche, un attimo. Avanti Brecche. Buonasera, ciao Marco, Uranio qua da questa zona, e niente, mi serviva un controllino come si stavo riarrivando alla tua stazione lì. Ok, buonasera, te cambio. Allora, ciao Francesco, dopo tanto. Allora, un segnale di 7, modulato, arriva quasi a 8, quasi a 8, la radio molto brillante, è bella forte anche, è limpida. Ok, perfetto, già sto uscendo bene allora, dai, perfetto. Non so chi stai modulando, perché mi pare che l'altro qua non arrivi, Comunque, un saluto lo stesso, buonasera anche all'altro amico, salutoni, ok. Va bene, riprendi Marco, a te cambio, dai, non so che ci sia qua in Adri, se ci sia in frequenza, non so, a te cambio, riprendi, fai girare. Sì, praticamente sto modulando, io sto uscendo con 3 watt adesso, e francese, sarebbero 4, ma c'ho anche un filtro per sicurezza, e sono 3 watt soli, Superstar 3009. Sì, sto parlando con la sorella di Pomponio, che però ha un'antenna, credo, non sul tetto, dai, un'antenna interna o comunque è bassa. Giovanna, lo copi Francesco da Uzzilo? Vado, perfetto. Vai Francesco. Attenzione Francesco Urano, io la copi, vai, vieni avanti. Oh, è già andato via. Sono entrato io, Marco. Ehi, Afra, ciao, ben risentito. C'è anche Riccardo. Ciao Riccardo, ben entrato, dai, facciamo, mando avanti Franco per Giovanna. Io, vista l'ora, caspita, devo buttare anche la mano, vabbè, fino a mezzanotte c'è tempo, non tarderò a chiudere comunque, dai. Vai Franco, c'è Giovanna e Riccardino. Non so se li sento perché anch'io ho l'antenna bassa. Butta dalla finestra, la differenziata. Vediamo un po', Giovanna, mi senti? piccola piccola, ma ti sento, come tu mi sentire a me piccola piccola. Ecco, siete vicini al mic, ti riesco a capire anche quello che dici. Adesso ti ho copiato, comunque ben sentito anche a te. Vediamo un po' se c'è Riccardo, se lo ascolto.